Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Insomma, lo dico subito, a me sembra di vivere un déjà vu, come dicono i francesi. C'è una storia già vista che però si ripresenta anche in forma quasi onirica e surreale. È chiaro che mi riferisco a Cipro ed è chiaro che mi sembra che l'Europa stia ripercorrendo a grandi passi tutti gli errori commessi nel 2010 con la Grecia, e cioè un caso limitato per quanto grave nel caso greco, Cipro era già più conosciuto, si trasforma con un effetto slavina da una palla di neve in una vera e propria slavina perché non lo si sa gestire. Che cosa è successo lo sapete, la proposta fatta da Cipro in realtà sembra fortemente voluta dai vari paesi dell'area euro nell'ultimo Consiglio europeo, a partire dalla Germania, di arrivare a un prelievo forzoso sui conti correnti. Adesso Cipro sta ragionando, avete sentito, di un prelievo non solo per, cioè solo per i depositi superiori ai 100.000 euro e non per quelli inferiori. Però tra poco dovrebbe esserci il voto del Parlamento, si è dimesso il ministro delle finanze cipriota, così sembrerebbe dalle ultime agenzie. No, ma al di là di questo, un caso che valeva qualche decina di miliardi di euro, che come ieri ci ha spiegato il professor Piga, dare questi soldi ai ciprioti sarebbe costato 13 euro per abitante dell'area euro, quindi per carità sempre meglio non darli, ma meglio dare 13 euro che scatenare il panico sui mercati, per cui passa adesso l'ipotesi che i paesi in difficoltà potrebbero essere chiamati a fare un prelievo forzoso sui conti correnti. Voi capite che di tutto avevamo bisogno tranne che di questa ipotesi, che significa far scappare i capitali, in primo luogo quelli stranieri, perché quale investitore indiano, australiano, piuttosto che canadese o americano terrebbe i soldi in un'area in cui può arrivare un prelievo forzoso sui conti correnti, e poi il tutto per una non situazione, per una voglia di ragionare in maniera ragioneristica sui conti, non capendo quello che è l'effetto che poi possono avere certe scelte. A me sembrano, lo dico molto tranquillamente, degli apprendisti stregoni, come diceva Goethe, cioè persone che mettono in piedi una pozione che poi non sanno nemmeno, di cui non sanno gestire le conseguenze. Tant'è che oggi Milano perde l'1,50%, Parigi l'1,40%, Francoforte l'1%, Londra meno 0,40%, l'America meno 0,36%, malissimo di nuovo tutte le banche. Mediobanca perde il 5%, Popolare Emilia Romagna il 4,80%, come Ubibanca, Popolare Milano il 4,20%, Banco Popolare meno 4%, Unicredito meno 3,90%, poi anche i titoli industriali, penso a Fiat Industrial meno 2,90%, Finmeccanica meno 2,80%, e Monte dei Paschi perde l'1,80%, Generali 2,60%, si salva solo Terna più 1,50%, Steam Microelectronics più 0,90%, Campari più 0,80%, come Ferragamo più 0,70%. Ma mentre adesso abbiamo letto che c'è un volo della Royal Air Force, della aeronautica militare britannica, verso Cipro con a bordo 1 milione di euro destinati ai militari britannici. La Gran Bretagna e Cipro ha un'importantissima base della RAF che serve per le operazioni in Medio Oriente, e alle loro famiglie, perché le banche sono chiuse, saranno chiuse anche giovedì, i bancomat li hanno svuotati e voi capite bene, la borsa sarà chiusa fino a mercoledì, scusatemi, e la banca centrale di Cipro si attende un'uscita di capitali pari al 10% dei depositi una volta aperte le banche. Ora io dico, ma tutto questo dovevamo arrivare per trovare 10 miliardi per Cipro? Cioè bisognava arrivare, o lo chiedevi alle banche stesse di salvarsi tra di loro, vedremo, poi ne parleremo con Jean-Paul Fitoussi, che è consigliere del governo francese, anche del ministro dell'economia francese Moscovici. Però insomma, a tutto questo non lo so, adesso sono tutti lì a dire ma no, noi non abbiamo mai chiesto niente. La raccontiamo un attimo in apertura questa cosa di Cipro, perché veramente rivedere lo stesso film che ci ha portato poi all'attacco speculativo all'euro per l'incapacità di aver detto fin dall'inizio la Grecia l'avremmo salvata comunque, invece abbiamo preferito, per non dare 130 miliardi alle banche greche che erano molto spesso soldi che servivano alle banche tedesche, alle banche francesi che con loro si erano indebitate, abbiamo preferito perdere 1.600 miliardi di capitalizzazione di borsa in Europa, per poi dopo un anno e mezzo, grazie a Mario Draghi, due anni, arrivare alla stessa conclusione, che nessun paese può uscire dall'euro e che la Grecia verrà salvata. Ora, io pensavo che dalle lezioni si imparasse, invece evidentemente abbiamo a che fare con degli apprendisti stregoni, si sta generando per un non so che altra espressione usare, un qualcosa di molto leggero nello spazio, stiamo generando una nuova attacco speculativo, è un nuovo messaggio che va a dire questa area euro è veramente inaffidabile. Se si va per una cosa del genere a toccare i conti correnti dei ciprioti e inizialmente anche di quelli sotto i 100.000 euro, non si meraviglino i governanti europei dell'ultimo Consiglio europeo se poi monta politicamente una versione verso questo tipo di Europa, ma non è solo il movimento a 5 Stelle. C'è un ascoltatore che dice: ormai la sua è una litania del tutto facile. Sarà anche una litania, mi scusi, ma vedere che si vanno a spaventare i conti correnti degli europei in generale, degli investitori stranieri, per trovare 10 miliardi per Cipro non è una litania, è un incubo in cui non sarei mai voluto entrare. Comunque lo raccontiamo. No, perché sarà anche una litania la mia, ma che giudizio vuole dare l'ascoltatore a quello che ha dichiarato oggi il capo economista di Commerzbank, che è la seconda banca tedesca, e lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Handelsblatt, che è il Sole 24 Ore della Germania, come quotidiano. Faccio notare che Commerzbank fu salvata dallo Stato tedesco nel 2009, perché i cittadini tedeschi diedero a Commerzbank 16 miliardi di euro di fondi pubblici, che poi ha ripagato, ma intanto non è che fosse messa così bene nel 2008-2009 per via dell'esposizione sui derivati e quant'altro, no? Eppure, nonostante tu sia stato salvato dai contribuenti, dovresti stare zitto quantomeno di fronte al salvataggio delle banche di Cipro. Solo salvare Commerzbank è costato molto più di quanto costa in questo momento fare un prestito a Cipro. Eppure sentite cosa dice questo genio, Jorg Kramer, capo economista di Commerzbank, nell'intervista a Handelsblatt. In Italia servirebbe una patrimoniale del 15% sui depositi. In questo modo sarebbe possibile risolvere il problema del debito pubblico. I patrimoni finanziari degli italiani corrispondono infatti al 170% del PIL, cioè superiori anche ai patrimoni dei tedeschi, che corrispondono al 120% del PIL. Sarebbe allora utile applicare in Italia una tassa patrimoniale sui depositi del 15%, che basterebbe ad abbassare il debito pubblico italiano sotto la soglia del 100% del PIL, cioè un prelievo del 15% sui depositi bancari. Allora la voglio dire molto chiaramente: intanto la patrimoniale, come sa qualunque economista, non si va a fare soprattutto sui depositi bancari. Uno che ha appena comprato una casa da 10 milioni di euro magari ha 100.000 euro sul deposito bancario e gliene prendi 15.000, un altro ce ne ha 100.000 e basta, perché li ha messi via per il futuro, per i figli, per comprarsi una prima casa, per quello che è, e gliene porti via ugualmente 15.000. quindi è un'operazione assolutamente iniqua. In secondo luogo, che senso ha dirlo se non fa scappare i depositi? E allora delle due l'una, lo voglio dire molto chiaramente: o Jorg Kramer non capisce una mazza, e mi dispiace usare un termine poco da economista, oppure c'è del dolo, perché è chiaro che quando i depositi vanno via da Cipro, dall'Italia, dalla Spagna, finiscono in Germania, come abbiamo visto 7-8 mesi fa, quando i rendimenti erano negativi, cioè si preferiva perdere dei soldi pur di metterli nei titoli di Stato tedeschi. E in questo secondo caso l'atteggiamento è quasi criminale, perché tu non puoi, per avvantaggiare le banche tedesche, seminare il panico sulle banche del resto dell'area europea. Se no ha ragione chi dice che questa Europa non c'è, non esiste più e conviene solo alla Germania. Cipro è un paradiso fiscale, se lei non sa, Barisoni studi. Lo abbiamo spiegato che Cipro è un paradiso fiscale, la ringrazio. Però anche l'Irlanda ha dei vantaggi fiscali, ma nessuno ha chiesto il prelievo forzoso sui capitali dei conti correnti irlandesi. Sarà perché c'erano molti britannici lì e non miliardari russi? Anche Lussemburgo, anche Liechtenstein sono dei paradisi fiscali, ma non è che andiamo a chiedere il prelievo forzoso sui conti correnti. Allora, come la mettiamo? Cipro sì, perché Cipro, Irlanda e Lussemburgo no? Perché sono più a nord? Chiedo. Va bene, nel frattempo nessuna responsabilità. Schäuble, il falco tedesco, ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble, dice non dobbiamo preoccuparci per l'euro. Ed è solo Nicosia, cioè solo Cipro responsabile di questo prelievo. Berlino non ha alcuna responsabilità, noi non abbiamo chiesto nulla, non abbiamo nessuna responsabilità sulle modalità. Ma la Francia è più dura, invece dice attenzione, va levato il prelievo sotto i 100.000 euro, sui conti sotto i 100.000 euro. E lo chiede anche la Christine Lagarde, per di avere un prelievo più progressivo sui depositi, cioè lasciare fuori i conti più piccoli. Domani a Bruxelles se ne parlerà con Mosca. Mosca infatti è furibonda perché ci sono 30.000 russi residenti lì, quasi sempre ricchi, oligarchi, la nomenclatura russa. I britannici, c'è una notizia bellissima sull'allarme che si sta generando anche, adesso lo devo ritrovare, sui britannici residenti a Cipro, perché è intervenuta anche il Foreign Office, oltre agli aerei, oltre ai soldi che adesso la RAF sta mandando, perché non ci sono più contanti a Cipro. Lo spread italiano è risalito a 330 punti, la Spagna è tornata sopra i 360 punti e il tasso di interesse dei bonus dei BTP spagnoli a 10 anni è tornato sopra il 5%. Mi sembra un gran risultato, no? Staremo a vedere cosa voterà il Parlamento cipriota. Da fonti di Bruxelles sembra che in nessun caso si voglia ridefinire il tetto di 5,8 miliardi, per cui deve arrivare a quella cifra il prelievo sui depositi dei conti correnti. È mancata questa mattina la maggioranza in Parlamento per il via libera al prelievo forzoso sui conti correnti e devo dire che su questo però il centro di ricerca tedesco ZEV dice attenzione, l'incertezza politica in Italia e la complessa situazione di Cipro aumentano i rischi di un peggioramento della crisi finanziaria in Europa. Sarà anche la solita litania, ma ogni giorno ce n'è una. Vabbè, per il resto, come giornata economico-finanziaria, c'è il dato oggi europeo sulle immatricolazioni di auto, nuovo record negativo, -10%. Anche in Germania vengono immatricolate meno auto, -10%. In Francia -12%, in Italia -17%, in Spagna -10%. L'unico paese in cui si vendono più auto e non meno auto è la Gran Bretagna, +8%. Sarà un caso, ma è fuori dall'euro. Sì, ha ragione anche chi scrive che mentre nel caso greco tutti restammo sorpresi perché truccarono i conti, lo si scoprì all'improvviso, la storia di Cipro va avanti da un anno e mezzo, si poteva pensare a tanti modi per trovare un salvataggio, non il prelievo forzoso all'ultimo minuto con la chiusura delle banche per 3 giorni, i bancomat svaligiati, la borsa sospesa, stiamo scherzando. E comunque in Europa soffrono anche le case tedesche, perché quando mancano i soldi e i consumi, anche le esportazioni sono più difficili. La Volkswagen ha fatto -7%, la BMW -3% e la Opel -15% come immatricolazioni. BMW però continua a produrre auto di lusso per tutto il mondo, ha infatti annunciato che i suoi stabilimenti stanno lavorando oltre il 100% delle capacità, li vende fuori dall'Europa. I modelli male anche Renault, -8,5, Peugeot, Citroën -13 e di Fiat appunto avevamo già detto -15,7% a febbraio. Ancora Ryanair, ve l'ha raccontato anche il nostro GR, ha fatto un ordine record per 175 Boeing 737 dal valore di $15,5 miliardi che permetterà a Ryanair di aumentare il traffico a oltre 100 milioni di passeggeri l'anno. È il più grande da sempre di una compagnia europea quanto a ordine. E poi, attenzione, c'è una notizia che... Me la date, ma cos'è questa crisi, che è un po' che non lo usiamo come stacchetto, perché l'iniziativa del CONI e quindi del neopresidente Malagò ha fatto arrabbiare i nostri parlamentari, non tutti, alcuni parlamentari. È un'iniziativa che insomma è molto grave in questo periodo di crisi finanziaria, dei consumi e dell'occupazione. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. No, perché con tutto quello che stiamo raccontando, giustamente alcuni parlamentari si sono sollevati e hanno minacciato anche di esercitare il loro ruolo dopo la decisione del CONI, che ha detto basta con le tessere omaggio per gli stadio ai politici. E quindi la tessera omaggio per vedere partite è stato un simbolo di molti politici. L'ha deciso il CONI, ha detto in maniera molto laconica: vogliamo evitare strumentalizzazioni su favori e privilegi riservati ai parlamentari, non rilasciamo più la concessione della tessera riservata a onorevoli senatori per l'accesso alle manifestazioni sportive sul territorio. Allora, il fondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, ha così commentato la decisione: non credo davvero che con questa decisione si aggiusteranno i bilanci dello Stato, mi sembra un'iniziativa che segue i tempi. A Milano consente solo l'accesso ma non dà diritto a un posto in tribuna, non ho mai usata, insomma si è lamentato parecchio. A me sembra che stare zitti, lo dico con massimo rispetto, di fronte a un paese che soffre quando ti levano l'accesso allo stadio gratuito sia la soluzione migliore, se no torniamo a dire attenzione, non lamentatevi poi della cosiddetta antipolitica, perché la generate anche con queste dichiarazioni. Noi partiamo col primo tema, che si chiama il dato di oggi sulla produzione industriale e a che punto è l'andamento della nostra produzione industriale. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, mentre l'Agenzia delle Entrate oggi fa sapere che è in arrivo oltre 1 miliardo di rimborsi IVA per le imprese e che l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha fatto sapere che è rallentato a febbraio il calo dei prestiti, non è che siano cresciuti i prestiti, è solo rallentato il calo dei prestiti delle banche. Il dato sulla produzione industriale di gennaio è un dato interessante, più 0,8% rispetto al mese di dicembre e meno 3,6 purtroppo rispetto al gennaio del 2013. Dico interessante perché un più 0,8% nella produzione industriale mese su mese non si vedeva dall'agosto del 2011. Anche la discesa si sta attenuando, continua ad esserci il segno meno, ma non così meno come prima. E allora cerchiamo anche di capire come sta andando la congiuntura economica usando strumenti che, come spesso facciamo, sono strumenti non convenzionali, non solo i dati statistici, i dati aggregati, le analisi dei centri studi. Eh sì, continuiamo a cercare di capire la morfologia di questa crisi, di questa difficoltà economica, non solo attraverso i dati macroeconomici e statistici. Oggi vorremmo capire a che punto siamo del guado, ma anche a livello mondiale, non solo quello europeo, utilizzando un indicatore che già nel passato abbiamo molto utilizzato, qualcuno lo ricorderà, si chiama Baltic Dry Index, ed è l'indice che misura il costo dei trasporti via cargo delle merci al netto, cioè escludendo invece le petroliere, chi trasporta petrolio o equivalenti. Questo perché la dinamica del petrolio è una dinamica un po' diversa, però è un indice molto importante perché a seconda di quanto costi affittare un cargo per trasportare le merci si capisce quante merci stanno viaggiando e quindi quanto dinamica è l'economia mondiale. Il Baltic Dry Index mette assieme i prezzi medi di una ventina di rotte, delle principali rotte al mondo. È chiaro che quando l'economia era in espansione costava molto trasportare le merci e l'indice era a 11.700 punti a maggio del 2008, che è stato il record, quindi voleva dire che c'era tanta gente che voleva trasportare merci via cargo, tante imprese, e costava molto noleggiare un cargo. Come scoppia la crisi, crolla, pensate, questo indice, che è appunto la media di vari prezzi, da 11.800 punti scende a febbraio del 2012 a 647 punti, minimo storico. quanto vale oggi questo indicatore come punti? Beh, siamo molto più vicini al minimo storico che al massimo storico. Infatti siamo 875 punti, che vuol dire che per quanto ci sia tutta una parte del mondo che sta crescendo e crescendo anche tanto, non si è nemmeno lontanamente tornati ai livelli del 2008, appunto nella domanda di trasporto merci. Ne parliamo con chi è presidente di Confitarma, quindi l'associazione di Confindustria che riunisce tutti gli armatori italiani, nonché presidente di D'Amico International Shipping. Presidente Paolo D'Amico, buonasera. Buonasera. Voi operate sia nel trasporto di carichi secchi, come si chiama in gergo, no? Minerali, granaglie, sia i liquidi, quindi benzine, gasolio, oli vegetali. E la vostra società, la DIS, è quotata nel segmento Star. Partiamo dalla visione complessiva. 875 punti di Baltic Dry Index starebbero a segnalare che l'attività di trasporto merci via cargo, che appunto è un termometro dell'attività economica, è ancora debole. Sì, lo è, però non direi che lo è per una mancanza di domanda. I volumi sono lì e su alcune commodities sono anche in aumento. Il dry alimentare, che per noi rappresenta il grano e la soia sostanzialmente, sono sostanzialmente in aumento perché la Cina sta importando quantità sempre più grandi. Vi è stato un ridimensionamento del minerale di ferro e, quale conseguenza del minerale di ferro, anche il carbone da siderurgia, che cammina praticamente in parallelo, perché chiaramente l'attività economica siderurgica nel mondo questo si è ridimensionata, ma da quella parte a est, quindi sempre parlando sostanzialmente di Cina e di India, le cose si sono rimesse in movimento grazie ai loro grossi programmi di infrastrutture. Quello che sta sostanzialmente deprimendo l'indice, quello che sta deprimendo il mercato, è il fatto che noi abbiamo un eccesso d'offerta, ovvero sia sulla base di quello che erano le prospettive di un mercato futuro dove c'era una metà del mondo industrializzato che comunque cresceva e un'altra metà del mondo emergente che cresceva a doppi numeri, la flotta mercantile era inadeguata, quindi vi sono stati forti ordini ai cantieri, forti rinnovamenti di flotta, e questi hanno portato sul mercato grosse quantità di navi che oggi sono lì e che hanno però subito la recessione, che vorrei ricordare nasce dalla finanza, non dall'industria. E quindi che è successo? Si sono a un certo punto ritrovate troppe navi rispetto ai carichi disponibili. Questo non vuol dire che il numero dei carichi è diminuito, vuol dire che le navi sono aumentate di troppo. Beh, ha fatto bene a precisare questa cosa, perché un indice così basso anche noi ha lasciato molto sorpresi, visto che appunto al di là dell'Europa il resto del mondo ha ripreso a crescere già dal 2010. Lei ci sta spiegando che però la produzione di navi era stata fatta pianificando un'economia sempre più in crescita, e quindi vi trovate adesso con molte più navi rispetto a prima, e chiaramente questo abbassa il prezzo complessivo, perché ci sono più come offerte di navi, ce n'è un numero superiore. Interessante anche la distinzione che lei ha fatto tra la domanda di trasporto di carichi secchi, inteso come granaglie, appunto, di tipo alimentare, invece la parte che riguarda più la siderurgia. Il comparto marittimo italiano, di cui purtroppo poche volte ci occupiamo, ma un comparto importantissimo, come ha reagito a questo eccesso, se vogliamo, di offerta di navi e anche, diciamo, comunque difficoltà in alcune aree geografiche? Ha segnali di ripresa, ha tenuto? Ma direi che sostanzialmente ha tenuto. Certo, è stato anch'esso vittima della situazione generale, non possiamo dire che ne stiamo uscendo fuori assolutamente indenni, sarebbe una bugia. Quello che ha preso oltretutto il contropiede molti armatori è che le controparti sono andate in difficoltà, ovvero sia spesso un armatore prudente ha fatto il suo investimento e noleggiato a tempo, quindi per un periodo di svariati anni, la propria nave, ad un operatore che però non ha fatto fronte ai suoi impegni e quindi ha messo come conseguenza diretta, ha messo in crisi l'armatore stesso. E noi direi che nella Marina Mercantile Italiana abbiamo sofferto molto di questo, più che di effettivamente di investimenti sbagliati dell'armatore. Quindi mi sento di dire che la flotta italiana assolutamente è molto giovane, ha fatto credo le scelte giuste, l'unica cosa ora ha bisogno dei suoi tempi per poter recuperare come era precedentemente. Lo può fare tranquillamente perché è una flotta molto giovane ed efficiente. Un'altra curiosità, voi avete però recentemente deciso di fare un aumento di capitale, cioè di chiedere soldi al mercato, e qui parlo di voi come DIS, importante perché 65 milioni di euro e poi i warrant esercitati porteranno complessivamente l'aumento di capitale a 100 milioni di euro. Per fare, se ho ben capito, investimenti, questo mi interessa perché non è un periodo in cui vediamo fare molti investimenti, a maggior ragione in un settore come quello del trasporto marittimo. Sì, beh, dunque, innanzitutto bisogna descrivere DIS, ovvero sia The Mick International Shipping, perché si occupa di prodotti raffinati, quindi non si occupa neanche tanto di petrolio, ma dei derivati da petrolio. Il nostro punto di caricazione non è vicino al pozzo di petrolio, ma è la raffineria, qualunque raffineria al mondo. E noi seguiamo ovviamente la dinamica anche di aperture e chiusure delle raffinerie, vi è un grosso movimento in merito a questo settore industriale. Molte raffinerie europee, che sono alcune assai obsolete, sono in fase di chiusura perché i margini di raffinazione sono negativi, mentre vi è una crescita esponenziale della capacità di raffinazione al mondo nella parte est, cioè dal Medio Oriente alla Cina, praticamente passando per l'India, che è un altro grosso hub di raffinazione. E quindi a voi servono anche per coprire le nuove rotte, oltre che essere, come lei spiegava prima, navi più efficienti che consumano meno ed emettono meno inquinamento. Grazie al presidente di Confitarma D'Amico per averci spiegato anche come si sta muovendo il commercio via nave e quanto il Baltic Dry Index possa essere in qualche modo fuorviante adesso, perché c'è un eccesso di offerta, un eccesso di navi prodotte nei tempi d'oro fino al 2008, in cui si pensava che l'economia non avrebbe fatto altro che crescere. Grazie, adesso la borsa ha chiuso con un meno 1,60% a Milano, meno 1,30% a Parigi. Parleremo di borsa e poi parleremo anche di Cipro, che con questa decisione del Consiglio europeo è riuscita a creare anche tensioni con la Russia di Putin e con i migliaia di miliardari che lì risiedono. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiariamoci subito, a me dei miliardari russi non me ne può fregare di meno che stanno a Cipro, il problema è il messaggio che diamo al resto del mondo. Allora, mi chiede un ascoltatore quando è che parto per Cipro senza ritorno e si augura che sia presto. Guardi, io ci andrei molto volentieri appena arriva bel tempo. Mi dispiace per lei, devo tornare. Non ho tutti questi giorni di ferie, ma se vogliamo capire la questione, poi non piangiamo fra qualche mese. Ricordo il déjà vu, anche con la Grecia si iniziò a dire ma tanto la Grecia pesa meno della Lombardia, sarà una cosa molto gestibile. E abbiamo dato il messaggio fuori che non sapevamo gestire neanche la Grecia, quindi via, fuga. Mi segnalano che i rendimenti di alcuni titoli di Stato tedeschi sono già tornati in negativo. Cosa vuol dire questo? Perché ce lo chiedete. Vuol dire che quando quello che era successo tra fine 2011 e inizio 2012, no? La fuga di capitali ed investimenti dall'Italia e dalla Spagna si dirigeva sulla Germania e si preferiva prestare 10.000 euro al governo tedesco per poi riavere indietro 9.999 pur di depositarli in sicurezza. Voi capite che quando un paese riceve soldi a costo sotto zero è nella migliore delle ipotesi possibili, perché può finanziarsi pagando meno, nel senso senza neanche dover offrire un interesse. È chiaro che la Germania in questo momento, non lo dico che lo faccia apposta, ma ne ha tutti i benefici perché diventa la Svizzera dell'area euro e tutti i capitali per sicurezza vengono messi nei Bund, ok? Però io, siccome parliamo della famiglia dell'euro, è un po' strano avere un fratello in famiglia che ti presta i soldi e ti fa un tasso da strozzinaggio che manco gli strozzini veri. È questo che stiamo facendo in Europa, sia nel caso greco che nel caso cipriota. Però adesso c'è la borsa, meno 1,60% Milano, meno 1,30% Parigi, meno 0,80% anche Francoforte. Per inciso, le banche italiane pochi soldi hanno prestato a Cipro, 900 milioni, quelle tedesche svariati miliardi. Ora io non capisco, fanno schifo i ciprioti e i greci o non fanno schifo? Perché se non fanno, se fanno schifo, perché gli presti tutti questi soldi? Anche ai greci le banche tedesche prestano tantissimi soldi, erano le seconde banche per esposizione. La borsa, voilà. Gli indici li davamo, i titoli, male oggi tutti i bancari, strano, meno 5% Mediobanca e anche la Popolare di Milano e anche la Popolare Emilia Romagna, meno 4% Unicredit e Ubibanca, meno 3,80% il Banco Popolare, meno 2,80% Intesa San Paolo. Come sempre con Radio Cori sulle 24 ore, ciao Condila, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, in realtà qui pesa Cipro, ma pesa anche l'allarme lanciato sulle banche europee, a cui mancherebbero 112 miliardi di euro per rispettare le regole di Basilea 3, se ho ben capito. Sì, assolutamente sì. Diciamo allo stato di oggi, alla patrimonializzazione di oggi, secondo l'EBA, alle principali, alle grandi banche europee mancherebbe questa cifra mostra appunto per rispettare queste regole. C'è da dire che comunque le principali banche italiane, da Intesa, Unicredit a Ubibanca, guardando gli ultimi bilanci, già sono in linea con la normativa di Basilea 3, quindi sono da ricercare in altri paesi gli istituti che dovranno approvvigionarsi appunto di questi di questa liquidità. Certo che comunque questa prospettiva ha immediatamente spaventato i mercati, ha visto un allargamento degli spread periferici, questo ovviamente anche per la situazione di Cipro, e comunque ha visto ancora una volta i bancari presi di mira a Piazza Affari. Sì, anche in Francia devo dire le cose non sono andate bene, per essere proprio... Tra l'altro lo spread si è leggermente riallargato, 330, in Spagna è tornato a 360. È in corso, sto guardando adesso le agenzie, il voto al Parlamento cipriota sul prelievo forzoso dei depositi bancari con fuori manifestazioni di piazza, ma vi torneremo tra breve. A2A, meno 3%, un po' di realizza. Decisamente, veniva da 3 giorni in cui aveva guadagnato quasi il 16% dopo la diffusione dei dati di bilancio che avevano visto un importante ritorno all'utile, un raddoppio del dividendo, un calo dell'indebitamento oltre le attese. In più su A2A c'è anche un'influenza data dall'allargamento dello spread, dato che la società resta comunque molto indebitata, una posizione finanziaria netta passiva per circa 4,3 miliardi. Poi c'è anche Fiat, dicevamo dei dati auto europei, Fiat ha fatto peggio del mercato e con questo immagino si giustifichi il calo del titolo in borsa, per quanto non sui minimi, meno 1,28%, peggio Fiat Industrial, meno 2,80%, bene Telecom e in generale, poi alla fine ha chiuso vicino alla parità, ma andava bene, in generale tutti i titoli legati alla telefonia, no? Sì, in Europa lo stocks di settore, cioè il paniere che raggruppa i principali operatori telefonici europei, oggi ha recuperato lo 0,4%, che guardando le principali performance di borsa indica che oggi gli operatori insomma erano ottimisti su questo settore. Telecom, come ricordavi tu, è andato bene in tutta la seduta, era arrivata anche a guadagnare quasi il 2% questa mattina quando i listini avevano iniziato poco sotto la parità, poi sono arrivate le vendite, alla fine Telecom ha chiuso esattamente sulla parità, quota 0,61 euro. Invece tra i migliori, allora, bene anche STMicroelectronics più 1%, qui pesa in senso positivo lo scioglimento della joint venture con Ericsson, ma perché? Ma perché è una joint venture che non ha mai funzionato in realtà, ha sempre prodotto delle perdite insomma in bilancio, diciamo che erano mesi che si andava avanti a definire una tabella di marcia per lo scioglimento di questa joint venture. Ieri è stata resa nota un po' appunto la roadmap, nel terzo trimestre avverranno i trasferimenti veri e propri di asset e di personale, ST ha dato i primi numeri delle efficienze che deriveranno dalla fine di questo accordo e il mercato l'ha premiata, ieri ha fatto più 5,3%, oggi più 1%. Allora, migliore in assoluto, Enertronica più 19, Mittel più 10, Seat Pagina Gialla più 5,50, Banca Popolare di Spoleto più 5,30, Isagro più 4,70. E invece fronte opposto, Unione Alberghi Italiani meno 7,30, Crédit Agricole meno 6,20, appunto le banche oggi pesanti, Popolare di Sondrio meno 5%, Piaggio meno 4,80%. Saras, dopo i conti, com'è andata? Saras famiglia andata Moratti male. Ha perso una perdita netta di 90 milioni nel 2012, in borsa ha perso il 2,7%. Piccola curiosità, la società chiude il quarto esercizio consecutivo in rosso e quindi ha deciso per l'ennesima volta di non distribuire dividendi. E il nostro avvicinamento verso quello che sta capitando a Cipro parte oggi dalla Russia, perché stanno ancora ragionando se esclude dal prelievo forzoso sui conti correnti chi ha meno di 100.000 euro, ridurlo di molto, 20.000 euro, comunque. Devono però trovare 5 miliardi e 800 milioni come chiesto dall'Unione Europea, è inutile che adesso i vari leader o ministro delle finanze tedesco, Schäuble, dicano non l'ha mica chiesto Berlino, eh no, l'ho chiesto io, sta a vedere. L'hanno chiesto i ciprioti, i lavoratori ciprioti. Non ha capito un ascoltatore quella della cristalleria. Dico che se l'elefante o è stupido e distrugge la cristalleria, oppure ha un interesse secondario, magari è proprietario di una cristalleria accanto. Cioè in questo momento c'è un paese che si sta avvantaggiando moltissimo, anzi i paesi del nord, da questa gestione miope, per essere buoni, della crisi. Ok? Si chiama Germania. Allora bisogna capire se ci fai o ci sei, come dicono a Roma. Andiamo avanti, dicevo, furibonda la Russia. Allora, attenzione, perché i russi sono ben presenti nell'isola di Cipro e chiedo di capire che cosa e quanto potrebbe, diciamo, andare avanti il braccio di ferro. La Russia ha tra i 30 e i 40 miliardi di prestiti in essere con banche cipriote e poi 12 miliardi di depositi. La metà dei correntisti non residenti sono di nazionalità russa. Antonella Scott, buonasera. Buonasera. Sei con noi in collegamento sei corrispondente del Sole 24 Ore dalla Russia. Allora, Putin e Medvedev proteggono i loro 5, 10, 20 mila amici, miliardari, oligarchi, o c'è dell'altro? Sicuramente loro, si può dire che c'è dell'altro, perché c'è soprattutto anche una questione, diciamo, psicologica, che scatta sempre in questi casi, in casi come questo, quando si ha a che fare con la Russia. Noi dobbiamo ricordare che il fatto che a Cipro si trovino miliardi sottratti all'economia russa è una cosa che irrita Putin, e il quale nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, ha lanciato una campagna per riportare questi soldi in patria. Sono soldi di cui viene privata l'economia, che in questo momento, come tutte, ha bisogno di aiuto. Il fatto che in questi giorni Putin sia furibondo con l'Unione Europea nasce dal fatto che, malgrado, come dicono i russi, ci fosse un accordo con l'Eurogruppo per essere consultati, dal momento che appunto la Russia ha molta voce in capitolo, essendo così presente nelle finanze di Cipro, la decisione di questo, nata in questo modo, che ancora dobbiamo ben capire, comunque in ogni caso i russi dicono che non sono stati consultati, e quindi per questo motivo decideranno se e in che modo collaborare con l'Unione Europea nel bailout. Scatta sempre questa reazione di che, come è successo, l'abbiamo visto da quando è crollata l'URSS, le decisioni prese quando i russi si sentono messi all'angolo, non presi in considerazione. Ora dicono che perfino un osservatore pacato come l'ex ministro delle finanze Kudrin dice: se l'Unione Europea intende andare avanti in modo unilaterale, trovare una soluzione a questo problema unilateralmente, non è detto che noi saremo così accomodanti nel cercare una soluzione. Quindi mi verrebbe da dire, non solo apprendisti stregoni, quelli del Consiglio Europeo, durante come economisti nella politica economica, ma anche nella politica estera, perché voglio dire, non avvisare la Russia se c'era questo accordo, forse si poteva fare, non devo insegnare io come si fa diplomazia internazionale. Sì. Ma sullo sfondo, visto che abbiamo pochissimi secondi, in realtà l'irritazione è perché lì sono presenti molti miliardari della nomenclatura, dell'oligarchia vicina a Putin e Medvedev, immagino anche, no? Assolutamente sì, lì possiamo, la lista degli oligarchi presenti a Cipro è la lista degli uomini più ricchi di Russia, e tutti appunto molto vicini al presidente. E poi c'è anche un'altra parte invece di cui si parla meno, che è l'altra metà, diciamo, chissà se metà, comunque di capitali molto più opachi che a Cipro trovano un modo per riciclarsi. :18:06 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, quasi totalmente dedicata a Cipro, ma non alla vicenda cipriota in sé, all'effetto slavina che rischia di generare. Allora, gli ultimi aggiornamenti. Il Parlamento del cipriota è riunito a pochi minuti, ma quasi certamente non ce la farà a approvare il voto sul prelievo forzoso sui depositi bancari, richiesto dall'Unione Europea per riuscire a salvare poi l'economia cipriota. I 20 deputati del partito di centrodestra hanno reso noto di aver deciso all'unanimità di astenersi dal voto per rafforzare la posizione dell'isola nel corso delle trattative. Si ragiona se esonerare i depositi bancari sotto i 20.000 euro e lasciare il prelievo forzoso del 6,75% per i depositi tra 20 e 100.000 euro e poi il 10% quasi per i depositi sopra i 100.000 euro. Devono tirar fuori da questa manovra quasi 6 miliardi di euro. Banche e bancomat chiusi a Cipro fino a giovedì per impedire la fuga di capitali. Comunque il governo si attende che almeno il 10% dei capitali scapperanno. Fino a domani chiusa la borsa, quindi anche domani. E tutti a dire non siamo stati noi. Il segretario generale dell'Ocse Guerrier dice non c'è pericolo per il futuro dell'euro. Moscovici, ministro dell'economia francese, dice il caso cipriota è isolato, non ci sono rischi di contagio. E così come il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha detto Berlino non ha alcuna responsabilità. Chi l'ha chiesto questo prelievo forzoso? La pensa diversamente il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha espresso fortissima preoccupazione per ciò che sta accadendo a Cipro e dice attenzione, il prelievo forzoso sui depositi bancari dell'isola creerebbe un pericoloso precedente che trasformerebbe l'Europa in una matrigna. Su questo è intervenuta anche Emma Bonino questa mattina a 9 in punto, ex commissario europeo, parlando del tema che più ci interessa adesso, e cioè dell'impatto che può avere questa vicenda cipriota, il modo in cui è gestita. Io ho già parlato di un déjà vu con il modo terribile in cui gestimo la vicenda greca, e sentiamo Emma Bonino sulle conseguenze non su Cipro ma sul resto d'Europa di questo prelievo forzoso sui conti correnti. Persistere in questo modo così testardo e a corto termine in questo tipo di politica di assenza di democrazia e avanti di questo passo poi provoca effettivamente lo sbriciolamento di una attenzione al progetto europeo. Ora, ma vediamo anche semplicemente come è andato, ed ogni giorno c'è un messaggio in questo senso. Oggi è Cipro, due settimane fa era l'accordo all'unanimità sul bilancio dell'Unione, che è un bilancio veramente secondo me vergognoso. Ad oggi c'è stato uno stop del Parlamento europeo, si riaprirà un negoziato e si vedrà, ma ogni settimana arriva un messaggio di questo tipo, che se poi questo è il messaggio che arriva è molto difficile chiedere ai cittadini o a un europeista come me di continuare ad avere fede e fiducia nell'Europa. Quindi stanno loro stessi provocando lo sbriciolamento del progetto e un grande sentimento ormai contro questa Europa. Eh sì, perché come dicevamo, al di là della cronaca che abbiamo raccontato da Cipro, da Nicosia, sul tentativo di arrivare a questo prelievo, sullo sfondo non c'è tanto Cipro, ma c'è la tenuta stessa dell'euro e che tipo di messaggio l'area dell'euro dà su come vengono trattati i membri di questo club, che doveva essere un club molto esclusivo dell'euro, e invece qua mi sembra di avere un cosiddetto déjà vu. Ah, perché anche con la Grecia si iniziò nel 2010 dicendo ma tanto la Grecia conta poco, pesa poco, sono solo 130 miliardi di esposizione. Poi il modo in cui fu non gestita o gestita in maniera sbagliata la crisi greca, cioè facendo capire che la Grecia poteva anche essere cacciata dall'euro, aprì il varco a qualunque speculazione. Dopo la Grecia ci sarà il Portogallo, dopo il Portogallo la Spagna, e dopo la Spagna il pesce grande, il big fish, l'Italia. Ho un déjà vu, dico, perché anche qui per un problema risibile, 13 euro a cittadino del, 13 euro per ogni cittadino dell'euro sarebbe costato salvare tout court Cipro. Stiamo aprendo il varco a varie ipotesi e visto che ho un déjà vu, vorrei parlare di un déjà vu con il professor Jean-Paul Fitoussi, che insegna all'Istituto di Studi Politici di Parigi e alla LUIS di Roma ed è presidente del Centro Studi e dell'Osservatorio Francese sulla Congiuntura Economica. Professore, buonasera. Buonasera. Déjà vu, gliela dedico, ma insomma è un già visto oppure mi sbaglio? No, è peggio di questo. È peggio? È peggio, è molto peggio, perché prima di tutto si fa questo déjà vu, si è fatto a un momento dove l'Europa stava imparando, dunque non aveva l'esperienza di questo, non aveva l'esperienza del peso delle parole come la Grecia può lasciare l'euro, eccetera. Secondo, è peggio perché questo non può avere come conseguenze che la fuga di capitale. È talmente ovvio che io mi chiedo o questi europei sono stupidi, succede, o non vogliono del bene all'Europa, perché questo crea una situazione terribile dove si fa confusione tra tanti problemi. Ci sono i problemi delle banche in Cipro, ma questo si sapeva da un po' di tempo già, non è una novità. E perché non fare pagare le banche che hanno soldi per salvare quelle che non hanno, che sono in difficoltà? Perché fare pagare la gente? Allora si dica ci sono i russi, e allora l'Irlanda ha una politica di attrattività per i capitali stranieri, no? Il Lussemburgo anche, ci sono parecchie paesi che giocano su questo lato dell'attrattività del capitale. Dunque questo non si capisce perché è una soluzione stupida a un problema che veniva trattato in un modo diverso. Soprattutto è stupido perché, come dire, si fa al momento stesso dove si parla di unione bancaria nell'Europa. No, si può credere a questo? Dov'è la credibilità Allora, di questa unione bancaria? E voglio aggiungere una cosa. Sì. Sono d'accordo con l'elenco che ha fatto Emma Bonino. Aveva ragione totalmente, ma ha dimenticato una cosa che è ancora peggio a livello dei simboli. L'Europa ha tagliati nei soldi caritativi per la gente. La spesa sociale? No, per mangiare, per il cibo. Per il cibo si dava, l'Europa aveva un budget per dare alle organizzazioni caritative che danno il cibo gratuito a quelli che non hanno più soldi per mangiare. Un mese fa l'Europa ha tagliato in queste spese. Che è questo genere di Europa? Quindi lei dice un'Europa non solo che minaccia di cacciare prima la Grecia e poi in realtà deve rimangiarsi tutto, non solo fa pagare ai cittadini ciprioti quello che poteva far pagare alle banche cipriote, ma un'Europa che nell'ultimo budget ha tolto i soldi per le Caritas, chiamiamole così, di tutta Europa. Ho capito il suo ragionamento, lei dice è peggio anche della Grecia, perché almeno con la Grecia si poteva dire era la prima volta, non sapevamo, non avevamo ancora capito l'effetto delle nostre parole, adesso però hai già sbagliato una volta e perseverare è diabolico. Faccio solo notare che salvare la Grecia nel 2010 sarebbe costato circa 130 miliardi di euro, questa era l'esposizione delle banche europee verso la Grecia. Di continuare a dire ma non sappiamo se la salviamo, forse la salviamo, forse no, un giorno la Merkel diceva sì, il giorno dopo diceva no, potrebbe anche uscire dall'euro e via così, è costato in capitalizzazione di borsa la perdita di 1.600 miliardi di euro. Ora, non ci vuole un ragioniere, nemmeno tedesco, per capire la differenza tra perdere, tra prestare 100 miliardi e perdere di borsa 1.600. Comunque, il traffico, perché io, F2C, non credo che possano essere così stupidi, così miopi. Purtroppo sono giornalista, sono sospettoso e penso che ci possa essere anche un altro interesse. Poi le leggo che cosa ha dichiarato oggi questo genio, il capo economista di Commerzbank, Jorg Kramer. Kramer contro Kramer, vabbè. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte. Mi fanno notare, avete ragione, che lo spread francese, anche la Francia paga un po' di più per trovare fornitori per il suo debito, creditori per il suo debito rispetto alla Germania, è schizzato negli ultimi 20 minuti da 65 punti, noi ce l'abbiamo a 330 punti lo spread, loro c'erano a 65, a 130 punti, cioè quasi 105 punti, scusatemi, quasi, non dico raddoppiato, ma un buon 50-60% in più. Vabbè, speriamo sia solo un fuoco di paglia. Detto questo, no, è inutile che scriviate che F2C, nostro ospite, è grillino. Era un errore dei giornali, l'abbiamo già detto, non ha mai collaborato con il Movimento 5 Stelle. Detto ciò, non ci sarebbe nulla di male né di illegale. Comunque, professor F2C, mi faccia capire una cosa. Lei dice o sono stupidi o non vogliono il bene dell'Europa. Però quando io leggo che il capo economista di Commerzbank, Jorg Kramer, dice che in un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, che è il Sole 24 Ore in Germania, che in Italia serve una patrimoniale del 15% sui depositi. In questo modo sarebbe possibile risolvere il problema del debito pubblico italiano e farlo scendere sotto il 100% del PIL. Anche perché i patrimoni finanziari degli italiani corrispondono al 170% del PIL, cioè sono superiori ai patrimoni finanziari dei tedeschi, che sono solo il 120% del PIL. Capisco due cose: a, che Kramer è un po' confuso perché non si capisce se lui pensi a un 15% di prelievo sui depositi o a un 15% di patrimoniale, che è un'altra cosa. Un conto è avere 100.000 euro e 30 milioni di euro di immobili, un conto è avere 100.000 euro che hai risparmiato tutta la vita per il futuro, per i tuoi figli, no? È inutile prelevare il 15% a due soggetti così diversi. E poi mi chiedo, a parte il fatto che la banca per cui lavora Kramer, Commerzbank, è stata salvata dallo Stato tedesco nel 2009 con 16 miliardi di euro, più di quelli che vuole Cipro, di cui ha bisogno Cipro, quindi uno dovrebbe stare zitto se t'hanno salvato i cittadini e lo Stato, non continuare a parlare. Ma o questo Kramer rientra nella categoria dei miopi, degli stupidi, non ho nessun problema a dirlo, perché crei allarme per nulla, crei panico, Oppure c'è un interesse sotto anche in Commerzbank nel creare il panico. Allora, è un ottuso o qui c'è un disegno sotto che fa comodo a qualcuno nel creare il panico sui paesi, diciamo, più deboli dell'area euro? No, per lui parla per il suo interesse, perché se i capitali vanno via d'Italia, vanno ad andare in Germania. E dunque vanno a fare i profitti delle banche tedesche. Dunque lui parla nel suo interesse di corto termine, perché se succede qualche cosa all'Italia, l'Europa va nel baratro. Questo è stupido. E parlare di una patrimoniale sui conti correnti è ancora stupido, perché la ricchezza vera non si trova sui conti correnti. La ricchezza vera non si trova sui conti correnti. No, si trova negli immobili, si trova nelle imprese, si trova nelle banche, nei profitti delle banche, ma non sui conti correnti. Quello che è sui conti correnti è il passaggio obbligatorio per le imprese, no? Che vanno a fare la gente se quando toccano i salari li si prende una tassazione supplementaria, ma questo è buffo. C'è un elemento di stupidità e c'è un elemento di interesse egoista delle banche, di quello che chiamiamo la concorrenza, e questo è anche dovuto al fatto che l'unione bancaria si parla ma non si fa. Quindi lei dice c'è stupidità e ottusità, ma c'è anche un interesse delle banche, in questo caso tedesche, perché sanno che se i capitali iniziano a scappare vanno in Germania, e loro hanno avuto nei mesi dell'attacco all'euro i tassi di interesse addirittura negativi, cioè la gente preferiva... Hanno guadagnato già un sacco di soldi, ecco, tedeschi, gli italiani hanno finanziato i tedeschi. Ah certo, con tutti i soldi che gli abbiamo messo in Bund, quando avevamo paura del BTP italiano, addirittura perdendoci. Ma gli qualunque paese vorrebbe ricevere soldi. Gli spagnoli, certo. E adesso vogliono che anche i ciprioti. Mm. Ma è una cosa, non capisco che si sente una voce politica per difendere questo. Ho sentito stamani Piero Moscovici, sì, perché avevamo una riunione. Il vostro ministro dell'economia, certo. Sì, lui ha detto, sì, ma se non si prende su i conti piccoli fino a 100.000 euro, allora sarebbe possibile. Io ho detto, allora perché non si prende solamente sui conti esteri? Certo. Se vogliamo fare battaglia contro l'evasione fiscale. E Moscovici, mi scusi, il ministro dell'economia francese, cosa le ha risposto oggi su questo? Lui non può dire altrimenti. Hanno avuto un consiglio, hanno deciso questa stupidità e deve difenderla. Se non la difende, passa per un... Per un matto, no? Che prima vota una cosa e poi non la difende. Sì, però, per concludere però, Fitoussi, oggi abbiamo visto, come ricordavo prima, molti dichiarazioni, addirittura anche la Merkel e Schäuble, non è colpa nostra... è solo Nicosia, è solo Cipro che ha deciso questa operazione, non gliel'abbiamo chiesto noi, non dobbiamo preoccuparci per l'euro, Angela Merkel. Questo non lo credo un secondo. Cioè lei dice, nel Consiglio Europeo della scorsa settimana i paesi hanno detto, Cipro, fai questa cosa qui, ti chiediamo di farlo. Sì. Come se ne esce? Perché Moscovici ha anche detto niente prelievo sotto i 100.000 euro. Addirittura sì, è una via di uscita, ma in ogni modo il male è fatto. Addirittura la sfiducia vis-à-vis i conti bancari, adesso gli europei l'hanno. Bravi, un altro bel tassello. Addirittura il New York Times oggi, che non è un quotidiano comunista, scrive misure senza senso, inutilmente dure. Punisce ingiustamente i risparmiatori e potrebbe provocare questa misura danni duraturi sul fronte della fiducia verso le banche degli altri paesi dell'area euro colpiti dalla crisi finanziaria. È il New York Times che invita a cambiare piano. Mi sembra che l'America sia più ragionevole, più diciamo keynesiana, più welfare oriented, più... Sì, ha capito quello che l'Europa dottrinale non vuole capire. Europa dottrinale. Cos'è l'Europa dottrinale? Sì. No, cos'è, dico, l'Europa dottrinale? L'Europa dottrinale è l'Europa che dice facciamo l'aritmetica dei conti. Manca 10 miliardi, prendono dove sono? Nei conti bancari, prendono nei conti bancari, senza pensare agli effetti di questo. L'economia è il mondo dell'interdipendenza. Non è il mondo dell'aritmetica. Quando si prende 100 si può perdere miliardi e gli altri conti fuggono. Senta, troppi ragionieri a Bruxelles e anche nelle... No, è troppo dottrina, credo troppo dottrina e non abbastanza coraggio tramite i nostri capi di governi per mettere le cose a piatto sulla tavola e dire basta così. Basta così, non possiamo più supportare, noi forse possiamo supportare perché mangiamo ancora la nostra fame, ma i nostri popoli è finito, non possono più supportare questa situazione, basta. Secondo lei, se continua questa Europa ottusa, dottrinale, aritmetica, ragionieristica... Va a finire male. Il movimento tipo perché Grillo... Dà ragione a Beppe Grillo, no? Che si fa a Cipro? Si prende il denaro dei piccoli per darle alle banche. Tutti i movimenti che si sono sviluppati come Occupy Wall Street o il movimento degli indignati, tutti hanno questa radice, che si prende il denaro alla gente che non ha fatto niente per darlo alla gente che ha truccato tutto. La soluzione sua a questo punto per Cipro è... Quale sarebbe? Ma non c'è una soluzione per Cipro, una soluzione per la Grecia, una soluzione per la Spagna. C'è una soluzione Europa o non c'è? Se non c'è una soluzione europea, allora bisogna capire che l'Europa non ti farà. L'Europa adesso è alla croce dei cammini, o fa un passo avanti o fa un passo indietro, ma non può stare come è oggi. Ma alla fine, mi scusi, è tutta colpa di un'Europa a trazione, a guida tedesco, finlandese, olandese? No, no, credo che un errore di concezione dell'Europa. C'è un vizio di costruzione dell'Europa, che è metà federalismo monetario, metà confederalismo fiscale, e questo non può funzionare. Può funzionare quando non c'è nessun problema, ma una vita senza problemi non esiste. Ma purtroppo no, Fitoussi, anche nella vita normale. Ma i problemi non sono i problemi, ma le soluzioni che si prendono, mi scusi il gioco di parole. La vita ha problemi e i problemi però nascono anche dalle soluzioni prese. Grazie, perché se lo dice lei, insomma, almeno non lo dico io, sono d'accordo praticamente su tutto quello che ha detto. Grazie a Jean Paul Fitoussi, che appunto insegna agli studi politici di Parigi, alla Louis di Milano, nonché presidente del centro studi e osservatorio francese di Roma. Ho detto Milano, mi scusi, mi faccio correggere da lei, se pensa che figura con la Confindustria. Presidente del Centro Studi Osservatorio Francese di Congiuntura Economica, grazie ancora. Arrivederla. Sì, poi scrive un ascoltatore: magari ci fossero ragionieri a Bruxelles, sono purtroppo professori, non lo so. So che mi sembra tutto un déjà vu, ma un déjà vu di un incubo. Torniamo alla vita reale. Intanto, buona serata. E poi domani, dalle 17 in poi, un'altra puntata di Focus Economia in diretta da Nicosia, no, in diretta da Milano. A domani. Radio 24. La passione si sente.